Si sa che i salmi collocati nel libro della Bibbia sono delle preghiere. Sfugge a molti, però, che queste preghiere non sono come quelle tratte dal messale e lette dal sacerdote cattolico durante la messa, ma sono il risultato di un vissuto storico. E, solo tenendo presente la storicità della preghiera, che possiamo dare valore alle parole pronunciate dal salmista. Diversamente, al massimo possono trasmettere un valore morale e niente più. Nel Salmo 51, per esempio, Davide chiede pietà a Dio. Come anche in tanti altri salmi, chiede perdono, come pure in altre occasioni. Ma quando disse «Ho peccato contro di te», una tale confessione acquista molto più valore se si sa che queste parole gli sono uscite di bocca dopo aver tramato del male contro uno dei suoi più fedeli e valorosi guerrieri, dopo aver commesso un omicidio e un adulterio. Con questa premessa, anche tutto il resto del suo discorso acquista un altro valore. Perciò, quando disse «Insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te», si comprende come un vero credente possa eventualmente anche commettere gravi errori, ma una volta chiesto e accettato il perdono di Dio, si è in grado di insegnare ancora ad altri quale comportamento Dio ci richieda. Occorre veramente del coraggio, perché si sarà probabilmente esposti a forti critiche di predicare bene ma razzolare male, eppure il Vangelo deve essere predicato non tanto perché si è perfetti, ma perché vi è un ordine perentorio da parte di Dio. Certo, chi predica deve essere coerente più di altri con il messaggio che annunzia, ma una grave mancanza nei confronti di Dio non lo esimerà dal suo compito. Diversamente, avendo i 12 apostoli commesso molti errori, come ci testimoniano le letture dei Vangeli, Gesù avrebbe dovuto orientare una nuova preferenza nei confronti di altri più adatti alla chiamata. È vero che a volte è impossibile risalire al fatto storico al quale Davide e altri credenti alludono nei Salmi, ma in uno di questi, fra i più conosciuti, cioè il Salmo 23, vi è un'affermazione di Davide di una portata spirituale inestimabile. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Chi legge la Bibbia conosce in gran parte l'esistenza tormentata di Davide. Dal fratello maggiore è stato giudicato orgoglioso, proprio quando ha compiuto uno degli atti più coraggiosi della sua vita, uccidendo con una fionda e un solo sasso il gigante Golia, alto più di 3 metri. Per questo atto di fede, il re Saul lo perseguitò a morte per tutta la vita. Uno dei suoi figli, Absalom, tentò di usurparne il trono, mentre Adonja, un altro suo figlio, cercò di usurpare il trono al fratello Salomone, da Davide stesso già dichiarato suo erede al trono. Una vita piena di problemi e tensioni, ma che non hanno impedito a Davide di scrivere «La mia coppa trabocca». Una simile affermazione, se fosse stata espressa dal figlio Salomone, era più che comprensibile, perché la sua vita è stata caratterizzata dalla pace e dall'abbondanza in ogni cosa, e a lui stesso era stata donata un'intelligenza adeguata al ruolo di cui fu investito. Ma procedendo da Davide, assume tutto un altro sapore. È facile benedire Dio quando ci si sposa, ma non è normale dire sia benedetto il nome dell'Eterno. Quando ti muoiono 10 figli e perdi tutto ciò che possiedi, come accadde a Giobbe. Perciò, la dichiarazione di Davide, la mia coppa trabocca, ha un profondo significato che vale la pena indagare. Innanzitutto, occorre uscire da un certo negativismo tanto imperante nel nostro modo di valutare le cose e prendere sul serio il fatto che, come è scritto, l'uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto. Giobbe 5.7. Perciò le varie contrarietà della vita devono essere ritenute parte dell'esistenza stessa. Senza di esse non può esservi esistenza né relazione, ma solo presenza. Come un sasso, per una persona matura psicologicamente, le contrarietà, apparenti e non, della vita, cooperano al suo bene. Nessuno avrebbe inventato la bussola se gli uomini avessero saputo navigare in mare nel buio più totale, come nessuno avrebbe inventato la ruota, se spostare gli oggetti fosse stato facile. Le difficoltà della vita stimolano anche l'intelligenza. Inoltre, occorre trovare sempre il positivo anche proprio dove non sembra esserci. Come può esserci del positivo nell'evento di una donna che viene violentata, o di un uomo il cui comportamento lo ha portato a espiare una pena in carcere? Apparentemente è impossibile trovarne, ma non sono pochi coloro che hanno subito violenze o le hanno commesse, i quali tuttavia in seguito sono diventati socialmente molto utili, più di altri, fondando associazioni per aiutare ragazze madri o aprire centri per i più bisognosi. Certo, non si incoraggia nessuno a compiere il male, per poi diventare autori del bene. Ma poiché nessuno di noi è perfetto, poiché non riusciamo a vedere certe opere sociali se non dopo esperienze negative, sfruttiamo il male a favore del bene. La mia coppa trabocca. Una simile realtà non indica che tutto proceda bene e che non si abbia nessuna difficoltà, ma che si procede nella vita con ciò che è positivo. Prendo un solo esempio. Nell'ambito protestante, Calvino. Giovanni Calvino nacque il 27 maggio 1564 e morì a soli 55 anni. Dal tempo in cui era studente a Parigi, Calvino è stato sempre debole e spesso ammalato. I suoi ultimi anni furono segnati da sofferenze continue. In una lettera ai medici francesi che gli avevano mandato qualche medicina, elencò le indisposizioni di cui soffriva: l'artrite, i calcoli renali, le emorroidi, la febbre, le nefrite, la grave indigestione, qualunque nutrimento prendo si incolla allo stomaco come una colla, le coliche, le ulceri, l'emissione di sangue invece di urina. Per concludere poi alla fine, tutte queste indisposizioni mi affliggono come un esercito. Eppure, con una simile salute, Calvino divenne uno degli uomini più influenti del pensiero cristiano. E quando il termine della sua vita era molto vicina, i pastori di Ginevra si accalcarono nella sua casa per ascoltare il suo ultimo discorso. Nel ricordare il corso turbolento della sua carriera, terminò dicendo: «Tutto ciò che ho fatto non vale nulla, e io sono una creatura miserabile. Però posso dire questo, che ho sperato di fare del bene, e che i miei difetti mi sono sempre dispiaciuti, mentre il timore di Dio è sempre stato radicato nel mio cuore. Ciò lo dico affinché possiate affermare che le mie intenzioni erano buone e prego che mi possa essere perdonato il male compiuto, e se c'è, è stato qualsiasi cosa di buono, vi prego di conformarvi a esso e seguirlo. Per quanto concerne la mia dottrina, ho insegnato in modo fedele, e Dio mi ha dato la grazia di scrivere. Ho fatto ciò tanto fedelmente, e non ho corrotto o distorto nemmeno un testo della scrittura. Quando sono stato tentato di concentrarmi sulle sottigliezze, ho resistito alla tentazione e ho sempre ricercato la semplicità. Non ho mai scritto niente che viene dall'odio per una persona, anzi ho sempre sottolineato in modo fedele ciò che pensavo essere la gloria di Dio. Chi serve con pura coscienza Cristo non può che dire Amen. Ma per confermare ciò che ha detto Calvino alla fine della sua vita, bisogna essere coscienti di avere una coppa che trabocca. Solo allora si hanno intenzioni buone, non si corrompe o si distorce. Nemmeno un testo della scrittura, non si scrive o non si dice nulla che provenga dall'odio. E si sottolinea in modo fedele ciò che si pensa essere la gloria di Dio. Occorre sottolineare che avere una coppa traboccante non significa che tutto proceda bene, ma che si ritiene che tutto cooperi al bene, perché i concetti di bene e male sono molto soggettivi e bisogna ammetterlo. Per noi il bene è quando tutto procede secondo il nostro modo di comprendere, e il male è tutto ciò che intralcia o non procede secondo la nostra visione della vita. Un esempio lo vediamo nel bollettino meteorologico. Si dice brutto tempo quando piove e bel tempo quando c'è il sole. Due valutazioni morali, bello e brutto, che non hanno senso. Dove splende sempre il sole ci è un deserto, mentre dove ci è sempre la pioggia ci sono inondazioni e distruzione. Perciò occorrono sole e pioggia perché ambedue contribuiscono al benessere dell'uomo e della creazione. Una riflessione questa, ritenuta forse da alcuni inutile e stupida perché tutti sappiamo che occorrono sole e pioggia, ma il concetto di bene e male, riferito alla pioggia, si ripercuote anche nella vita. Ed ecco che riteniamo quello di una disgrazia un brutto periodo, mentre quello di una vincita al lotto, bello. Dobbiamo discostarci da questa mentalità, perché non ci aiuta a comprendere i piani di Dio, che sono sempre a favore dell'uomo, quando si parla della grazia di Dio, che è del continuo a favore dell'uomo, dobbiamo ricordarci il termine semantico che possiede. Mentre secondo il vocabolario il termine grazia si riferisce a quella qualità naturale di tutto ciò che impressiona gradevolmente i sensi e lo spirito, in greco il termine è charis, che significa favore, benevolenza, ricompensa, una parola che deriva dalla radice greca char, la quale indica tutto ciò che produce benessere. Infatti, da questa radice in greco si sono formate altre parole che hanno questo obiettivo. Carisma, cioè un dono dato per benevolenza, charizomai, cioè fare un dono gratuito, fare un piacere a qualcuno. Perciò, secondo il termine greco, la parola grazia è usata per esprimere il concetto di ciò che produce o genera del benessere tra gli uomini, mentre per noi il termine grazia è riferito al comportamento di una persona, la scrittura usa il termine grazia per indicare tutto ciò che produce del bene al prossimo. Se allora Dio è ricco in grazia e misericordia, se crediamo che tutto coopera al nostro bene, qualsiasi cosa accada, ecco che la coppa dell'esistenza di chi ha posto la fede salvifica in Gesù trabocca. Se poi, sentendotelo dire, ti ritengono pazzo, questa è la goccia che fa traboccare la tua coppa. E chi ti è vicino berrà dall'abbondanza di questa coppa. Ottobre 2010. Ellero.